Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, le scrivo per parlare dei piani regolatori dei piccoli paesi, che di fatto sono in mano alle decisioni di consigli comunali fatiscenti. Abito nel paese di Bè, 700 abitanti, in provincia di Verbania. 20 anni fa ho acquistato un villino del 1904 e da allora abbiamo lavorato per ridargli l'aspetto originale. La zona in cui abito è bellissima, ha vista lago e conserva un gruppo di ville del primo Novecento. Il fatto era stato a suo tempo considerato nel nostro piano regolatore. Tutte queste costruzioni erano state ammesse solo al risanamento conservativo e la zona considerata verde privato con interesse paesaggistico. Tutto ciò fino a ieri, in quanto, per una villa del 1915, che si trova di fronte a casa mia con influenza sulla mia vista, sono state approvate richieste di varianti al piano regolatore e di declassamento dell'immobile, e ora sarà di fatto sopraelevata di un piano. Tutto regolare? Pare di sì. Ma com'è possibile che non vi siano regole certe e uguali per tutti? Come mai i vincoli possono essere messi e tolti tanto allegramente? Le risposte dei miei amministratori sono state queste. Se chiedono la variante al piano regolatore, dobbiamo concederla. I vincoli sulla costruzione erano stati un errore. Non sappiamo che interventi si vogliono fare in quella proprietà, e così via. Io non avrei difficoltà a lasciare il paese, ma il problema mi pare più ampio. Stiamo perdendo di vista la realtà e il bene comune. Abbiamo bisogno di poche regole uguali per tutti e di qualche organismo che possa controllare e al quale il cittadino si possa rivolgere. Questo senso di impotenza mi distrugge psicologicamente. Veleda. Gentile Veleda, lei ci manda anche una bella fotografia della vista che si gode dal suo villino. Complimenti. Non posso entrare ovviamente nel merito della validità giuridica della sua protesta e mi auguro che lei possa conservare comunque il pregio architettonico e urbanistico del luogo in cui vive. Ma la sua lettera, mi consenta, passa un po' troppo facilmente dagli interessi privati al bene comune. C'è ovviamente un suo diritto, ma c'è anche un diritto dei suoi vicini. Il bene comune non è soddisfare l'uno o l'altro, ma compiere delle scelte che rispettino e, se possibile, esaltino i diritti di entrambi. Non è certo facile, anche perché, come lei lascia intravedere, possono esserci anche interessi nascosti e favori personali. Comunque, non mancano in Italia strumenti e istanze per appellarsi contro le decisioni della pubblica amministrazione, anche se va tenuto conto che la giustizia non ha sempre tempi veloci. E questo, la lentezza della giustizia, va contro il bene comune. Quello che non capisco è cosa dovrebbero fare i vari Santoro, Floris, Dandini, eccetera, eccetera. Mi spiego. Santoro dovrebbe forse fare un programma sui lemuri del Madagascar invece invitare mirmecologi a parlare di formiche? Credo faccia un programma di attualità dove cerca di dare una visione, a volte contraddittoria, a volte schierata, e ci mancherebbe che non possa farlo, a volte sociale. Insomma, credo che parlare dell'attualità di un presidente e di un partito, che giustamente o meno finisce nelle bufere giudiziarie, riempiendo i titoli di tutti i giornali, affiliati o meno che siano, non possa non essere motivo di discussione. Una discussione che può anche entrare nel merito dei modi in cui viene messo sotto accusa l'accusato e che può cercare di far capire in che modo si è giunti a quell'accusa. Si dice che sono tutti di sinistra o comunisti? Beh, a me sembra che ci sia anche parte dell'opposizione presente in studio. Il format prevede interventi di vari opinionisti? Beh, che gli altri chiedano di mettere un opinionista di contrasto, oppure che costruiscano un format dove parlare del loro punto di vista, peraltro non censurato da Santoro. Ma se la TV trasmettesse programmi di autocompiacimento governativo, credo che tutto precipiterebbe nel grottesco. E allora che problema c'è? Santoro e Company fanno una trasmissione che, tra l'altro, a volte fa un gran servizio all'opposizione, grazie a scivoloni stilistici o eccessivamente schierati. Forse prendono la nostra intelligenza per inferiore, non in grado di giudicare. Credo che lo spettatore medio delle trasmissioni in questione abbia la capacità di discernere e di scegliere che cosa vedere. Stefano, Udine. Quello quelli che adesso vorrebbero autoridursi il canone RAI perché per un mese, in periodi di par condicio, che ricordo è stata fortissimamente voluta da Scalfaro e legiferata da D'Alema, sono stati privati di Santoro e Floris, ma non citano Vespa, chissà perché, sono gli stessi che strepitavano quando in altro periodo, non di par condicio, a destra c'era chi proponeva di non pagare il canone perché in RAI imperversavano appunto Santoro, Floris, Dandini, Fazio, l'Annunziata e compagnia cantante. Di che stiamo parlando? Fabio. Ma con chi avrebbe dovuto prendersela Berlusconi? Ogni qualvolta si parla dello strapotere della sinistra nei palinsesti del RAI, si invoca il conflitto di interessi di Berlusconi, quasi che il medesimo si avvantaggiasse di questa anomalia per orientare e condizionare il servizio pubblico, cosa che, di tutta evidenza, non è. Lo provano i numerosi programmi settimanali di chiaro orientamento antigovernativo e specificatamente anti-berlusconiano. Anno Zero, Ballarò, Parla con noi, Mezz'ora e altri, persino ascoltando le intercettazioni telefoniche di discutibile legittimità del Tribunale di Terni, vi è prova provata che gli interventi del Premier, che si lamenta della faziosità dei suddetti programmi, invocandone la sospensione per gli ennesimi linciaggi in diretta, non sortiscono alcun effetto. Poi, come contraltare di questo, la sinistra tira sempre in ballo la trasmissione di Vespa. È corretto paragonare trasmissioni in prima serata di prevalente argomento politico con quella di Vespa che va in onda dopo la mezzanotte e che è onnicomprensiva di un'infinità di argomenti di varia attualità, moda, musica, gossip, personaggi? La valenza dei programmi è largamente squilibrata per numero, per fascia oraria, per indici di ascolto e per contenuto. Ricordiamoci del clamore suscitato quando fu spostata di 2 giorni una delle suddette intoccabili trasmissioni per presentare Vespa in prima serata sul terremoto dell'Aquila. Un finimondo. Ma gli italiani hanno davvero capito in che consiste questo fantomatico conflitto? A me pare abbiano capito che il vero conflitto è tutto all'interno delle 3 reti RAI, da sempre lottizzate tra partiti, che sono, questi sì, in eterno contrasto di interessi tra loro, incuranti degli sperperi che noi ripianiamo col canone. Franco. Trovo che lo strumento delle intercettazioni sia assolutamente indispensabile per il contrasto alla criminalità. Trovo altresì incredibile che queste vengano acquisite dalla stampa tramite le solite gole profonde, che non si è mai saputo chi fossero, nemmeno ai tempi di Tangentopoli. Sembra più evidente che la strategia delle procure sia quella di avere visibilità mediatica, che forse serve loro per fare carriera. Che poi il nostro Presidente del Consiglio sia una fonte inesauribile di intercettazioni piccanti e interessanti, questo è solo responsabilità sua, tanto che ormai se qualche PM vuole aprire un fascicolo, basta si ascolti una mezza giornata di telefonate. Se poi il procedimento dura anni, costa uno sproposito ai contribuenti, intasa le procure e non conduce a quasi nulla, allora in qualunque contesto professionale una valutazione costi-benefici si impone. Sarebbe interessante sapere qual è l'impact factor di certe richieste delle procure sulla vita pubblica, un po' come si fa con le pubblicazioni scientifiche. Alcuni fatti di gossip rivelati dalle intercettazioni fanno somigliare più i quotidiani a riviste di gossip, forse perché questa è l'unica stampa che tira. Andrea. Un rappresentante dei magistrati, ospite ieri alla vostra radio, ha difeso l'uso delle intercettazioni in quanto utili a indagare su mafia, delitti vari, eccetera. Su questo sono d'accordo. Mi sfugge allora perché sia stato intercettato Berlusconi o altri personaggi della politica, del giornalismo, che non rientrano nella casistica di cui sopra. Dato che ci sono 50 addetti alle intercettazioni di Berlusconi, tra magistrati, poliziotti, eccetera, e visto il numero delle intercettazioni che si fanno in Italia, si deduce che gli addetti complessivi devono essere parecchie centinaia di migliaia. Mi domando poi se non ci sia nessuno che controlli la catena del passaggio delle informazioni ricavate con le intercettazioni, dato che comunque ci sarà pur stato qualcuno che le ha ordinate. Paolo. Sembra strano che nessuno abbia toccato l'argomento relativo alla pubblicazione delle dichiarazioni del reddito dei nostri parlamentari. Eppure per tanto tempo si è parlato di casta e su questo argomento sono state dedicate molte ore e sono anche stati scritti dei libri. In particolare vorrei soffermarmi sul fatto che l'onorevole Di Pietro si trova al secondo posto e questo mi porta a 2 considerazioni. Ora capisco perché ce l'abbia tanto con Berlusconi, vorrebbe esserci lui al primo posto. Quando Di Pietro lavorava come magistrato, doveva chiedere in prestito una Mercedes e aveva problemi di soldi. Ora che fa il politico, è in classifica dopo Berlusconi. Ma uno che fa soltanto il politico, come fa ad avere un reddito così? Domenico. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.